che un altro mi desidera, che qualche volta penso a lui, giocare con la tua gelosia, oppure no, no. Oggi sta cantando Dirtelo, non dirtelo.